Oggi, 30 anni fa, Aldo Moro. 30 marzo 1978. Si apre la direzione della Democrazia Cristiana. Parla il segretario Benigno Zaccagnini. Iniziamo dunque i nostri lavori col pensiero rivolto ad Aldo Moro, interpreti di tutta la Democrazia Cristiana, del sentimento popolare, di una generale plebiscitaria opposizione alla barbarie e alla sopraffazione, vediamo in Moro la guida sicura del nostro partito. Alla fine la direzione democristiana decide di respingere ogni trattativa con l'IBR. Comincia la linea dura, già anticipata dal Partito Comunista. Alcuni giorni dopo, la stessa decisione sarà confermata da tutti e cinque i partiti della maggioranza. Lo segue intanto il lavoro degli inquirenti. A Parigi viene arrestato Antonio Bellavita, direttore del periodico Controinformazione, considerato vicino alle Brigate Rosse. Daniele Biacchessi, GR24, Il Sole 24 Ore.